Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata la nuova legge per la semplificazione amministrativa in agricoltura, le iniziative dei gruppi assembleari in tema di superbonus edilizio e ancora il fondo regionale per la non autosufficienza e le interrogazioni a risposta immediata su ambiente e lavoro. Tempi più snelli nella concessione dei contributi, procedure digitali e semplificazione per l'adesione ai bandi. Stop alla richiesta di documenti già presentati in precedenza. A questo mira la revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. La nuova legge è stata approvata a larghissima maggioranza dall'Assemblea Legislativa e aggiorna la precedente norma del settore ormai datata. Sentiamo il relatore Matteo Daffadà del Partito Democratico. Una nuova legge che riguarda appunto gli aiuti in agricoltura, aiuti dal punto di vista burocratico, aiuti dal punto di vista informatico e di semplificazione. Un intervento importante è quello di portare da 10 a 5 anni il vincolo di destinazione per gli investimenti fatti con contributi regionali. Va appunto nell'ottica di una semplificazione rispetto anche ai bandi, rispetto anche ai fondi che nei prossimi anni arriveranno. Snellire le procedure e sburocratizzare. Un impegno, quello della semplificazione, salutato positivamente dall'Aula di Viale Aldomoro. Ecco cosa ci ha riferito il relatore di minoranza Andrea Liverani della Lega. Sono convinto che questo è un punto di partenza, c'è da fare ancora molto, soprattutto anche per un fatto che di accelerare anche i tempi per dare i soldi ai nostri agricoltori, soprattutto quando si va incontro a delle gelate importanti come quelle che abbiamo avuto. E adesso passiamo al superbonus in edilizia. Anche in assemblea i consiglieri regionali hanno preso posizione con numerosi atti per chiedere che siano preservati gli incentivi introdotti dal decreto rilancio del maggio 2020 per rendere più efficienti dal punto di vista energetico e più sicure le abitazioni. Il provvedimento potrebbe subire delle variazioni nella prossima manovra del governo. Sentiamo Marco Fabbri del Partito Democratico, primo firmatario di una risoluzione. Come gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato quest'atto dove invece chiediamo fino al 2023 un impegno concreto che vada a confermare gli attuali massimali, ma anche in prospettiva di rendere questi bonus strutturali, anche accorpandoli, ma comunque non disperdendo quei benefici che sono fondamentali per le nostre città, per la riqualificazione e la rigenerazione, sia in chiave urbanistica ma anche ambientale. Da Forza Italia l'appello affinché vengano mantenuti gli attuali criteri di riconoscimento del superbonus al 110%. Sentiamo la capogruppo in regione Valentina Castaldini, firmataria di una risoluzione. Su questo ambito c'è stata un'enorme ripresa economica e moltissimi lavori sono stati fatti. Non bisogna modificare il contenuto e la proposta che il superbonus ha. Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, con una risoluzione, un question time, ha chiesto alla Giunta di spingere il governo a prorogare a tutto il 2023 il superbonus, senza riduzioni rispetto all'attuale platea dei beneficiari. Ci spiega il perché. Limitarla quindi solamente, la proroga solamente ai condomini al 2023 e per le villette solamente sotto a una determinata soglia di ISEE significa penalizzare appunto i nostri operatori e penalizzare tutti quei cittadini che avrebbero voluto accedere a questa opportunità. Critiche da Fratelli d'Italia. Il capogruppo Marco Lisei lamenta la troppa burocrazia. Purtroppo la burocrazia ancora una volta la fa da padrone e conseguire questo bonus spesso è difficile per i condomini e per gli appartamenti e per tanti cittadini. Passiamo alla Commissione Sanità, dove si è discusso del Fondo regionale per la non autosufficienza. L'atto, che definisce l'impegno finanziario per il 2021 a sostegno delle attività e dei servizi per le persone con disabilità, ha ricevuto il parere positivo della maggioranza. Sentiamo la consigliera del PD, Francesca Maletti. 500 milioni di euro, di cui 457 messi a disposizione con fondi della Regione Emilia-Romagna per garantire ai cittadini emiliano-romagnoli una qualità di vita migliore. Questo vuol dire permettere ai cittadini e alle loro famiglie di poter andare nelle strutture protette, ma anche avere tutto un insieme di servizi legati alla non autosufficienza a dei costi molto più calmierati. Critiche dalle opposizioni. Ecco Simone Pellone della Lega. Così non va, nel senso che non si può arrivare a novembre a fare le destinazioni di un fondo così importante, perché i territori devono avere le risorse a disposizione molto prima, e poi dobbiamo guardare ad altre regioni un po' più virtuose su questo fondo, che investono quasi 800 milioni, tipo il Veneto. Come di consueto, l'ultima seduta d'aula si è aperta con le discussioni dei question time. Giulia Gibertoni del gruppo Misto ha presentato un'interrogazione sul caso degli scoiattoli grigi e le azioni adottate dalla Regione per prevenire l'espansione invasiva di questi animali sul territorio. La Giunta regionale ha proposto di sottoporre a gassificazione con anidride carbonica gli scoiattoli grigi dell'Emilia Romagna, ha fatto una parziale retromarcia, ma non basta, anche perché è un contentino che agli animalisti non sono soddisfatti, nel senso che gli scoiattoli verrebbero comunque trasferiti in cattività. Ci sono metodi ecologici che ISPRA chiede di applicare. Gli scoiattoli possono essere catturati, sterilizzati e liberati in natura. Per conservare gli ecosistemi non c'è bisogno di uccidere. Loro pensano in un modo ancora, a mio avviso, preistorico, non è più così. Igor Taruffi di Emilia Romagna Coraggiosa ha interrogato la giunta sull'annunciata chiusura dell'azienda Saga Coffee di Gaggio Montano, nell'Appennino bolognese, che coinvolge 222 lavoratori. Si tratta dell'ennesima delocalizzazione che impoverisce il territorio, impoverisce il lavoro, quindi è indispensabile che la Regione e il Ministero, soprattutto il Ministero dello Sviluppo Economico, intervengano e mettano in campo tutte le misure per scongiurare questa decisione. L'Appennino bolognese non può permettersi in nessun modo di perdere altri centinaia di posti di lavoro. In questi giorni si è insediata la nuova consulta di garanzia statutaria, presieduta dalla professoressa Chiara Bologna. Si tratta di un organismo autonomo che esprime pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum e anche pareri di conformità allo statuto delle leggi regionali. Sentiamo cosa ha dichiarato la presidente dell'Assemblea Legislativa, Emma Petitti. Sappiamo che abbiamo sfide importanti di fronte che riguardano l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza e il grande rapporto che vogliamo continuare ad avere con la comunità europea. E quindi è importante anche riaggiornare la nostra agenda rispetto al processo di riforme che coinvolge la nostra regione, e sono sicura che la consulta, per competenza e per qualità, saprà supportarci in maniera importante. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Avete ascoltato Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini, Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire. Direttore Mauro Sarti.